sì, scusa, ma sto seguendo la bambina che si è fatta scalza. No, si è tolto le calze, i pantaloni, tutto c'è tolto. Allora non c'è la vista. E allora? Due anni, sta, ma è una festa. L'importante è che non lo faccia quando ne ha 20. Allora, non riesco mai a essere con me. Ciao! Ciao, amore. Amore. Chiusa io. Cosa hai detto, amore? Come ho chiusa io. Non ho capito, amore, mi dici. Sono chiusa io. E sei chiusa? Sì. Sì, con amore, ciao. Sono Giovanni, sono Giovanni. Amore, io ho 10 anni. Dico di una mia, l'altra si è fatta il cambio di gomma. Come ti chiama? Come, minore? Come ti chiama, perché? Ah, sì, io penso, mi chiamo Giovanni. Sono Giovanni. Sai tuo Giovanni di Dio, così? No, tuo figlio adesso. Ah, questo è mio figlio. Daniele, come profeta. Sei carina, sei carina. Guarda, quando sono piccolo sono degli uomini. Guardate che quando sono grande non faccio una carina. L'importante è quello. Come si dice? No, ci mancherebbe, è che non ti senti voluto, sì. Devo restare, guarda. Era una fresca. Ti ho offerto uno, Gianni, guarda, grazie. Nessuno assicca, grazie, come mi ha colpito le palle? Sì, sì, sì, troppo facile. Qua sta arrivando bene. Vedi alle 7, radio 4, dai. Ok, perfetto. Non c'è problema. No, io ti ascolto un po' confuso. Ia, ia. Cioè, qua c'è la patata, non si può vedere niente. Ok. Ecco. Adesso. Oh. Adesso mi metto che ti trovate di testo. Adesso mi ascolti così. Allora i bassi che ti piacciono. Non mi ascolti a me, mi piace qua, Ma cosa io ho cantato, mi ha fatto giù al treno, con quelle scatole in carta, ma ti spiegate il tempo bene. Ciao Lugaria. Fame, fame, oia. Peccato, adesso sono grande, ma grande però. È la calma al mare. Oh, cazzo. Mi piace, stavo facendo bella giornata, da. Lui? Io ho pensato una ragazza che piangeva. Fortuna con le donne. Aspetta, non più sul sito, non te la faccio aiutare. Ma che lo capisci? Questa? Ehi, ehi. Ma che lo stessi a lui? Sì. No, qui non sta arrivando. No, adesso non sta parlando. Tu deve essere più di più. Tu deve essere più stato in finale di coppola, tutto così. Oh, ma risponde. Allora, dai, sarà piccato tutti lì, capito il finale, Tarantino, quanti vinto, ma ti sento lo stesso, continua pure. Ehi, non ti preoccupare, ancora c'è il 300% del 700, capito? A un mio amico, l'ho detto anche che sembra una saetta, in cui preciso istante, e c'è un fine in pieno nella sua antenna, ha bruciato tutta la mia tradizione, ha bruciato il finale, l'ho detto, è stato superato, come se è stata una casualità. Che è una casualità? Non è che ti viene a salti tu, gli hai salotte. Avanti lì. Che cacqua, ora che trova! Oh, Nara. Nara, lì. Oh, già, comunque quell'esperimentazione non sono riuscita a farla, perché ci metteva un po' di tempo, non l'ho fatta. L'ho fatta con un altro programma che c'avevo e... Come ti risultati tu? Come? Sì, arrivo. Lui, ma tu? Raffa. A posto. Poi devi fare un altro passaggio. No. Lì ce l'hai acceso. No, aspetta. Perfetto. Sì, è perfetto. Tranquillo. Ma quando lo fai l'audici? Quello lì mi devo far fare, che è troppo lento, sennò. Io lo so. Facciamo tre passi così vedo mi fissa le cartelle a prendere fare su perché è un po' lentino. Poi stasera stavo messaggiando con Messenger, no? E niente, c'avevo aperto e a un certo punto è sparito sia dallo schermo da desktop che da sotto dalla barra dove c'è stato giù in basso. Ti consiglio un buon dial, anche un buon anti-dial. Internet, i figli sono tutti giorni, se non si entra molto traffico e si frega. Aspetta un attimo, via. Lui che sono qua. Avanti, Luca. Alla che bomba! Alla che bomba! Ma che spiego la radio? Ma non c'è questo? Benito, ho ciabba! Guarda che stai a dritto, la lui! Luca! Sabato! Non devi mettere le mie cose. Se vi dico, la carica sta bene, lo stare del commentatore. Amici, ascolta. Luca. Che cazzo? Ehi. Chi è? Luca. Questo amico può sentire il nome di Dio qua. Io? No, non è io, no. Chi è che vive? Rosseno! l'ho portato praticamente sotto un muro, lo stavo portando su la canapa e si è accasso e si è staccato, ma grande, ah, e cosa ho preso la canapa? Bene, ha perso, grandi. Una seppia ho preso, io ho perso anche una seppia grande, ho preso, ma grande, si è staccata. Cosa la guarda di questa aiuta, gli amici? Attaccarsi così, calavare subito, non si stacca. Ciao Luca, ciao Gianni. Ciao Antu. Ciao Antu, buonasera. Avanti. Controllo, guarda vero un po'. A palla solo, a pallone. Pallina. Oh, alla passo. Io sono preso arrivato a casa, mi prego se me lo concede mia moglie. Claudio sono, ma ci arrivo? Sì, se te l'ha detto farà di nuovo. Claudio sono, mi sentite? Uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre. Dai, intendimi. Siamo 9.40 la gestione. Vediamo un po'. Ha chiamato lì, te la state schiacciando continuamente con la povera donna lì. No, non l'ho schiacciato io. No, perché ti stanno schiacciando continuamente, stiamo perfettando, per cercare di sentire. No, stavo parlando Gianni, però non si capisce. Gianni, ho arrivato, uno, due, tre, troppo. Tira. Ma è che c'è questo? La carella. No, dico, cosa stai trovando? Che c'è la carella? Tu lo ritorno a casa? Nara già. Ho fame, oia. E vai che perde. Uno, due, tre, così fame. C'è la folla che mi aspetta, capa. Guarda, se ti dà tutti. Mamma mia! L'agricola so. Io. Ce l'ha preso con l'altro lui, il calamaro. A di che? Fuggita, l'ha attaccato un'altra nel baracchino, non faccio forza di lenza. E l'ha preso con quello. Dove sei tu, lì fuggi? Meglio va un attimo! Andiamo, sono io no! attimino, aspetta, fai fianco un attimino, che ce lo senti ad Alessandro Ricca, vai, pronto. Figa, non lo sento, che ha parlato. Zitta. Ehi. Lì. Non lo sento se ha parlato Alessandro. Lu. Zitta. Ehi. Aspetta, ti chiamo quando sono arrivato vicino a... dentro a casa, dai. Ma è? Siappa, mi senti Luca? E a me mi sento, Rita Reza, mi sento. Ha voglia. Ciao, Natalia. Ciao, Rita Reza. Ma sei a paura? Che ti trova la ricla? Eia, all'altro sono. Molto chiaro. Natali. Forte chiaro, forte chiaro. Salve a tua, sì. Natali. Oh. Salve a tua, sì. No, sto andando a casa, sono in macchina. No, non mi chiede Natali. Natali. Oh, è lì. Ma non mi chiede. Ehi, ma si è parlato in 50. Non c'è tra niente, devi imparare a essere più difficile. No, no, così. La portata c'è. Sto via. Va bene, Gava. Riponi qua, Rita, Gappa. Buonasera. Ehi. Un bravo questo. Allora mi arriva il forte, Luca. Ma Gappa, davanti ce l'abbiamo, davanti a noi c'è una scatola di tuono camminata. La scatola di tuono, questa cosa. Arrea, di nono. Sì. Via. Io ho capito una cosa. Se la vedi di Castella, cosa frequenta, c'è gente, però dopo che ha bevuto, si trova con tutti. Ah, ehi. Senti come poppano. Pipì tu siamo. Ma è una rame di piega. L'unico che mi piace è Natali. Ehi. Ma la madre di un pipì che è uno lì. Ti sento qua, già. Sono in macchina, andiamo a negativo, va. Ma che chiesi? Sì, sto andando a casa, sono in zona bassa, va qui. Bella mattina. Mi ascolti, vabbè. Sei calma, che problema, lì. Ehi. Senti la risposta. Ehi, cosa devo tirare? Ma sì. Vai, Ludo, dove sei? Sì, guarda il elicottero. Non mi passa sotto casa, lì. No, qua, lì, dopo... Passato lì punti adesso, dai. Passato lì punti. Sono lì a... Vabbè, qua c'è Branda Santoso, va. No, Alessandro, non l'ho sentito. E l'ho portato lei a lui. Non l'ho sentito. Parrocci, KK e KK. Andà bene. Eia! Questo gli è da fede in Cacuti. Antonio! Dimmi! Cosa stai facendo? Seduto! Al baracchino ascoltando a voi! Però te impigli! Eia! Lugarello! Forte e chiaro qua! Mi ascolti! Forte e chiaro! Non ti preoccupare, non ti posso toccare, sopra che da tua parte. No, state c'è un pallavolo lì. Attenzione, Pierpaolo Vela 1, senti qua, Gappa. Pedro Paolo, a Firenze. Se lui non era la radio. Giovanni, o Giovanni, qua c'è il mercato, mi ascolti? Guardi, intendo con tutta la scelta. Guardi, tu intendendo, con questi. Guardi, tu intendendo, e già per la pubblica lunga. C'è una scatola di cosa, di... di cosa, come si chiama, di Moscardini. Ma... non si vede, è tutto. Quello è la parete di Tunni, quello che c'è di cartoni matti. A Gaia, c'è. Sì, da come chiudo, da qui. Ah, ti sento per me stesso, non è un problema. Quando ti dici davanti alla multa, è un po' più basso, cosa ti senti? Chi ti ha chiamato quella 1? Sì, a Belfa. Sì, a Belfa. Mi senti? Forse è chiaro. Qua viene Porto Torres, scappa. Porto Torres. Viale, viale Porto Torres, gappa. Sì, viale Porto Torres. Via, via. Pedro e Paolo. Ecco, voi, Gianni, il caldo. Ecco. Anche quello mi ha un po' demoralizzato, ho fatto delle più grandi pizzate, ho conosciuto gente del continente, ho conosciuto molte persone, sono rimasto amico con alcuni, ci vediamo ancora, con alcuni amici continentali, addirittura avevo fatto la pizzata a Milano 26, che c'era gente di Milano, gente da Torino, gente da Cagliari, zona limitrof, eccetera, eccetera. Ah, entrava un bel di gente nella chat come ce l'ho io. Non lo so se il danno, perché sono meno che si fa il mettitore. Trattare col personal porta anche un fischio. E lo so, lo so. Tu costa, non è che ne so, costa. Hai i suoi corsi per lo meno. No. Non lo succede mai alla radio. Sai che ho provato anche a chattare in una chat dove c'erano solo CP, gente che tutta che aveva il baracchino, che ce l'aveva ancora, ho parlato con molte città del continente, mi hanno detto che ancora qualcuno c'era in certe città, però era scomparso del tutto. Anche dalla prima persona, era 27, minaccia, costringi, tutti gatti, non la prima camerata, però che tu una persona, fatti figli, non lo so, invece ognuno, le cose che inizia a fare, le informazioni, per il mercato, per gli interrelettici, per la cultura, chiare la propria conoscenza, e non avere appunto una stessa con gli occhi che non vedono, ma è quello che si raggiunge. Fondamentale che una persona impari. Questo è il tempo, non serve a niente la radio altrimenti, solo se si scappa e poi dovrà la caratta. Ma la radio la vedo in un modo, diciamo, distensivo nel senso che quando sono da lavoro ho bisogno di rilassarmi, farmi quattro chiacchiere con gli amici in gamba e fa piacere. Solo che tante volte si è interrotto a portarmi, a pernacchi, a queste cose qua, che mi disgustano, capito? Mi disgustano più. Rilanciamo a Luca e poi fai girare, perché sennò monopolizziamo. Avanti Luca. E Luca doveva salire a casa, perché insomma che non c'è più. Avanti. Sicuramente adesso risponderà da casa. A quale più dei tuoi? Che anche io mi sto trasferendo a casa. La macchina. Si faccio un rifiuto per me. Già, io credo che sia molto importante avere amicizie. Ma l'amicizia si costruisce. Vabbè. Lo so, non è facile avere un vero amico, non è molto facile. Molti sono amici per interesse, molti sono amici di passaggio. L'amicizia che intendo io è un sentimento profondo, ma sarebbe un discorso molto lungo da fare. No? Ma è facilissimo da capire. Io credo che la lealtà l'intelligenza, la capacità, la comprensione, la disponibilità e la potenza della persona nel senso di amicizia comportino un lungo rapporto e anche un grande rispetto delle parti. Purtroppo queste caratteristiche sono venute a mancare molte persone, molti si nascondono perché la covardia della persona è legata a molti fattori, o perché uno si dice i suoi problemi, o l'altro si racconta la barzelletta che ha litigato che è più ancasta, o quello che è preso Viagra, o le frasi, no, non deve essere buio, nel nome di tutti gli infamiliari. Sinceramente io l'amicizia la intendo per quello che è, deve essere, cioè la sostanza dell'amicizia è nella realtà. Soprattutto nella capacità di esporre i discorsi con il rispetto verso l'altro, capisci che è un cantore. Ecco, è un tipo di rapporto come quello tra marito e moglie, ci vuole sincerità, ci vuole chiarezza in tutto, è più tutto, solo che è difficile trovare amici così. Io momentaneamente ne ho solo uno, io mi conosco poi. diciamo che ne sto costruendo altre amicizie, però sempre con il piede di piombo, col passo molto lento. Avanti, sono Vittorio Giove e basta. Ciao, Vittorio. Hai fatto bene a dirglielo. Ciao, Vittu. Oh, io vi saluto, dai. Hai fatto bene a dirglielo, Vittu. Ciao, Rita, che sta andando via. Buon proseguimento con te. Ciao, Rita, buonanotte. Via, ciao a tutti, dai, in generale. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Mi ha sonno. No, non è vero. Ah, lo si intende. Ciao, ciao, ciao. Io amicizia senza profondo, ma io mi chiedo con questa persona che mi immaginavo ho avuto dei rispulsi che lui alta distanza e io senza stagione e attenzione quando si dice quello un amico quante volte dobbiamo fare i conti con una certa persona, dobbiamo pensare anche che siamo noi quante volte, non che gli altri ci vedono con i figli di fiocco, perché non ci guardiamo noi, se sono gli altri che invece vedono con i figli di fiocco verso di noi, avanti di tutto. Stanno a cenare, là. Ci sentiamo dopo. E lui va bene, sono a pezzetto, sei un po' triste di quello che succede. Sei... giornataccio, piovoso. Piovoso per me, per va bene. Quindi, vedi con nostro a sera, non ti afferra. Ormai direttamente, è ubito buon appetito. A dopo, dopo. Ciao, dopo, dopo, ciao. Dammi. Ehi, a voi che ti risponda. Perché io mi conosco, so come sono, e non sono una persona, sono semplice, ricco di sentimento, però gli altri non so come sono fatti. Siccome di fregature ne ho avuto molti, quindi vado a vivere di più per questo. È vero, io non l'ho mai invitato a casa a doppio rumo, è un bravo ragazzo, cosa altro, le confinate hanno svuotato il frigo, no, no, a casa sua. Via. Non sono mai venuta a mangiare a casa tua, meno male, se no guai. Non mi sono fidato io. Visto? Oh. Non mi sono fidato il frigorifero. Sei sempre questo, come in giro in tutti i paesi, a cinghiale, caffretti, agnetti, porcetti, sono zone dove ci abbiamo i migliori pascoli, già qualcosetta già si busca. E allora guarda un giorno. Ti porto un mezzo agnello, perché il papà era lì, era venuto in cucina di due, e non vuoi andare a capire, ma con gli assati, dei cucinani, tu vane, certo, vuoi dire. Quindi intanto può farmi stare a vedere, ma insomma, ci vediamo in quelle valli, preparati. Sono pericoloso dove è Natalino, capito? Sono a rischio. E perché? Sì, perché in mezzo alla foresta può succedere di tutto. Mezzo alla foresta, chi si innamora con... non si fida, non si fida a questo Vittorio, perché adesso è nella taglia col codino. E c'è quanta gente si è persa andando lì a trovarlo. Si perdono quei binottoli, poi non hanno neanche il cellulare, e allora ritrovano quelli della forestale lì, e scende gonca e che cosa è ricordo? Mangiando un muschio. Che maledizione. Ma che tu stai con il tuo cubino gelando? Signora, no, no, quando sono sceso da Natalino, come sono sceso da solo, ho messo il filo di Arianna, no? Dal quadrato l'ho tirato, fino a dove lui, e poi l'ho trovato per fortuna, perché era la mia grossa, eh? Sì, meno male perché... Grazie. Sì. Saluto a cena, è così, a troppo. E vai, vai, vai. Ma fino a signora Laura mi sembra che è comunque, va. Sì, ma lì mi fa mangiare, marcio. Si fanno le gabbelline. E sai perché lo fa? Hai mandato in cucina. E allora, più sei grasso, più ti voglio bene, meno ti guardano le altre, capito? Allora, c'è anche questo. C'è una bambola, cos'è? Su qualche tu non avessi già parole? Cercherò di conoscere, dopo te lo racconto, raga. Laura, sta attenta a quel Vittorio che è l'onfio. Chissà di quanta gente te ne si è approfittato, mi dispersi in campagna, tu ma scalzone. Vai, vai di tu, vai, ti racconto una cosa dopo. Laura, sta attenta al Vittorio, mica ti mangia tutta la roba dei cellini. Vittorio non ha più fame. Tu fida a ruolo Vittorio, va niente. Non è meglio guardare una vestimenta. E noi ci siamo già scuola. Non ho quel problema. E via. Qualche titolo. Vediamo un po'. Sto riprendendo anni. Che per un... Ehi? Dobbiamo pensare che siamo noi, dobbiamo andare se non c'è forza, se gli altri devono venire in Parlamento le istituzioni, perché tutti che ti conosci, no? Ma fondamentalmente l'altro, proprio la tua paura, no? Tutto questo lo sottovaluti, quindi c'è uno scontro, a un certo punto di calare, invece una persona deve essere libera, per esempio, se conosciuto una famiglia, no? Praticamente in macchina c'è una doppietta caricata a palettoni. Ho detto adesso vado la macchina e la ammazzo, invece pure prendo un altro. Solo perché l'ho visto col fischietto, mi è piaciuto. E vi siete fidanzati, perché lo so che tu lo cerchi sempre, vuoi sempre a lui. Certo che mi sono fidanzato. No, la carina è la mia fidanzata, anche perché io sono di modo perfetto, ma quindi mi piacciono quelle parti. E poi c'è una foresta, le istituzioni di Roma, vogliono pure gli altri posti. E bisogna vedere se Natalino ci sta a fare la fidanzata, se vuole fare il maschietto. No, io non mi piace accorgere questo fatto, essere contento. E allora, se l'immagine questo giorno, che la prende buona già se il giorno mi giro e faccio il maschietto. Quando mai? No, assolutamente. Interessante, mi piace. Lo ti diminuisci in colpa. Tu sei troppo magro per me. Ma ti faccio mangiare prima? Si manda l'ingrasso a te. E io via. Già abbiamo una giara. Devi stare attento a camminare con le spalle al muro, perché non si fa mai. Gianni, sì. Ho inciso una cosa che non ha un senso, nel senso che tu, io sento sempre che tu ti scontano, che tu ti scontano, e io ci vedo con i piedi piombo, l'altro ci vuole mettere la canna da pesca, l'altro ci vuole mettere una palla di cannone, tutte queste cose qua. Se invece fossimo più naturali, ce ne freghiamo, no? Del comportamento dell'altro, io sono così. Io ultimamente l'ho fatto per la famiglia, ho avvicinato una persona che mi ha fatto buttare via il vento, buttarsi, perché guarda, però non è che mi stava secondando, perché, no, semplicemente, quando così la cancello, la passata, ecco, cancellandola, poi non si problema, ci sono tante brave persone, che tutti danno anche la sensazione di vivere, non tutti sono... sempre persone buone, Gianni, io faccio questa cosa, io guardo il lato buono delle persone. Ecco, fondamentalmente bisogna fare questo, bisogna guardare il lato buono, perché se costui uno pensa, ma io dico questo, ma me lo fa, oppure se faccio per l'altro, ma non si riesce, ma andate in aria, cioè non puoi stare lì a lasciare la testa, io sono proprio così, cioè tu non sai le possibilità locali, non puoi, è un casino. No, ma io non parlo, non sto quantificando i soldi quello che sto dicendo. Io parlo proprio come amico. io diciamo che ho avuto anche delle fregature dagli amici, quindi non fregature in denaro, fregature in altre cose, credevi magari che fosse veramente un amico e poi si è dimostrato diversamente. Quindi ci vado a capire di più, ma per le esperienze che ho avuto. Solitamente le esperienze negative si fanno per imparare, no? Quindi ho imparato ad andarci due piedi di piombo e quello è senza un valido. Poi do anche il cuore, se mi accorgo che una persona è in gamba, gli do anche il cuore, però prima devo accorgermene che una persona, come dico io, si chiama, sperato poco e male probabilmente. Questo che tu non puoi essere così, però lo sai tu, in un interiore, no? Non è una cosa che tu dici, ah, io ti amo, ma non lo vedo, è impossibile. Anche perché manifestare una femminuccia è più facile, è più diretto, perché un maschio femmina lega diversamente. Ma manifestare una maschietto non si può fare così, io credo che la naturalezza è grande. Allora, cosa è questo? Vabbè, facciamo così, ti posso dire, vabbè, ci sono altro mondo. Non c'è bisogno di stare a lavorare, ma di non riuscire. Ad esempio, no, io vado alla cabina, così la mente vicina e non mi sfida. Ma ho fatto parte di questo diventando. Io la vedo così. Se decido di andare da una persona, è perché ci vado, perché vivo, non riesco a nascondere. Niente, pure tutto il resto, ma c'è magari con tutti il gioco, poi quello, no, se mi vuole fare figlio, che faccia figlio, quando ero con due fermatisti, con chi vuole, mi può anche fare male alle spalle, e molto probabilmente, sostanzialmente, si perderà la propria testa. Lo so, però sono sempre cose che ti segnano, se tu credi in un amico, sono cose che ti segnano e quindi meglio evitarle. Io parto da questo presupposto qua, poi ti sto dicendo, se uno dimostra veramente di essere amico, gli do anche il cuore, non è che, però prima mi devo accorgere di questo, mi deve dare, anche io vado a pelle comunque con le persone, me ne accorgo quando una persona è falsa o no. Io sono delle teste di uovo, guarda, io sono una persona molto critica e tanta cattiva, non mi dirò però, ma molto critica. Le teste di uovo che sono tutti di natura, perché si può solo di cucinare, non c'è più carnevico, però non tutti così, tu dici, ma la decisione, infatti anche in quello che ci si è capato, perché non sei Gesù Cristo per sapere chi è quella persona. Fondamentalmente sì, è vero, si sente quando una persona è reale e si ricade in casa perché te la scarabai e non ha niente da nascondere, quelle sono le persone reali. Le persone che fanno vedere che non nascondono nulla, che sono seri, sincere, sono persone pulite, limpide, qui cammino. Perché sono possenti, perché quelle persone ignorano, non devono nascondere nulla. Quindi sì, tu si vede che hai abbastanza spirito di iniziativa per l'interno. Legare un'amicizia, ma intanto è proprio con te già, è brutto, non è brutto con te. Ricordo che un'amicizia la può trattare con una parola, dicendo che tu sei una persona, che ne so, tutti in faccia con la stessa speranza e non dico che ti furia. Lo so, lui vabbè, dipende anche dal carattere dell'altro, e specialmente anche da chi lo dice, perché io se devo dire una cosa del genere non la dico, la penso, ma non la dico a non offendere la persona, perché ho il cervello collegato alla testa. Dacci di tutto quanto a Pierpaolo, dai, così facciamo girare, se no diventa troppo monotono il discorso, magari certe persone si annoiano. Meglio far girare, far dire un parere anche a chi c'è in ruota, dai, avanti Pierpaolo. Sì, via, sono d'accordo con Gianni. Guardarci con i piedi di piombo, con gli amici è sempre meglio, dai. Che purtroppo gli amici sono così, In che senso, Pierpaolo, che il piombo forse non ti fidi in carrenza? Perché gli amici, insomma, arrivato a un certo punto di te se la fregano anche, certo non sono tutti così, è logico che non sono tutti così, però è norma, prima ti fanno e poi ti lasciano. Allora, facciamo una prova, un esempio, no? Un esempio. Beh, non ci conosciamo, a un certo punto sono stretti, ma che cosa mi puoi fregare? Perché questo è il primo, capito, si fregano, poi si faranno male? Di tutto, un po' di tutto, cioè dai, un po' di tutte le cose, o ti fanno una cosa o ti fanno l'altra, dai. Sì, ma, no, aspetta. Sì, può. Non deve avere un significato. Allora, un esempio. Se lasciamo lo spazio, sì. Perché ha visto qualcosa che non va. Oppure, non nega caratterialmente? No, mi sono fatto strada. E quindi, le strade si dividono. Capisci? Evidentemente quella persona non è capace di fare qualche cosa. No, si parla dell'amicizia. L'amicizia, siccome è una cosa sacra, è una cosa che si deve rispettare in tutto. Quello che bisogna pensare della persona è vedere il lato positivo. Io vedo sempre il lato positivo delle persone. Sono un po' come San Paolo, però se una persona mi fa un torto, io lo lascio sempre per il senso, dopo la sua strada, quello non vedrà più la mia persona, non ritornerò della mia presenza alla sua persona. Senti, se non... Se scopro, chi mi ha rubato la busta della monetta, taglio le gambe. Frate napoletano. Qualche napoletano, stai tranquillo, capisci il mio piacere. Per esempio, io vedo Luca, io l'ho conosciuto Luca, no? L'ho visto, ho chiacchierato con lui, un bravissimo ragazzo, capisci? Un bravissimo ragazzo, capisci? Con il mio ho chiamato il mio amico che lavora in Ancona, e mi ha detto, hai trovato qui, ti ero riuscito. E com'è? Mi ero riuscito, dice, mamma mia, è il tuo ideale, lui, hai un esito. Grazie già, è il tuo appoggio. Appoggio? Era il disco che avevo con me. Capisci per fare? Le persone non devono creare suscitti per il padre il rapporto dell'amicizia. Ma questo non andrà bene, non vedete voi, e lui è discorsi di palunghi, lui è così. Ognuno è com'è, ognuno si spiega a modo suo. Capisci? Anche perché, come dicevamo, la persona con Vittorio, ognuno pensa di avere ragione, perfetto, però tutti che fa sempre quattro. Ora, se facilmente non si girare, rigirare, capottare, ricapottare, il filologico è solo uno, e la ragione è solo una, infatti, di perfetto c'è solo Gesù Cristo. Però di giusti ce ne possono essere tanti. Ma la cosa più bella è avere il risultato. Perché se uno non ha non dà il risultato, non serve a niente per farlo. C'hai ragione anche tu da una parte, ma bisogna vedere sotto che aspetto però, perché per esempio io ne ho ricevute tante fregature. Sì, ma aspetta, scusami una, così io cerco di capire cosa tu, cioè cosa hai sentito tu, perché io posso spiegare cosa mi hanno fatto, te l'ho detto, ma questo mi vedo da poco. Quindi questo mi vedo come una fortuna, me l'hanno fortuna perché mi sono trovato una persona che, non amico, credevo fosse un po' intelligente, questo era tonto, è un altro discorso, mi ha potuto migliorare il danaro, sai cosa che hanno fatto? Non so, in questo momento non so cosa dire, proprio è difficile da spiegare. Magari era un rapporto di amicizia, perché lui precisamente si è allontanato da sé, senza dirti nulla, magari non le hai fatto niente, poi ne ha pure parlato male. Ma le persone sono anche così, Ti giro dalla mattina alla sera e passa, si comportano un po' stranamente. Quello sono, molte volte hanno problemi, le persone non te lo dicono, non riescono a dirtelo. Forse perché magari si vergognano. Può essere anche così come dici tu, però il fatto sta che ti tradiscono, capito? Ma sta a te? Ti tradiscono! Ma il tradimento da parte di un amico è una cosa bruttissima, senza ombra di dubbio. Non ti lascio di cuore, non mi amore. Dai nomi! Io credo che l'amicizia non ha confini, è sempre riserva, tutto quello che vuoi. Però bisogna costruirla, E per costruirla bisogna essere chiari, sinceri, difficili, dove si può fare. Ah sì, Ecco, se uno con l'altro parlano e ti fa dire questo che cazzo non mi fa bene. Oh, ma l'altro ha l'opportunità di risponderti, ti dice, ma guarda, magari è involontaria quello che ha, è una cosa involontaria quello che ha fatto. E tu non lo sai, copi rancore e ti lasci. Ma sicuramente anche come dici tu, però succede che gli amici si fanno così, capito? Che è amicizia. Oh, comunque io mi hanno già chiamato a mangiare, vado a mangiare adesso, dai. Ci risentiamo dopo più tardi. Lui anche adesso sul molo che è una signora. Sentiamo dopo Paolo, Gianni e Luca. Sentiamo tra un po'. Anche se io sono detto che è un capito, sinceramente non ho mangiato niente. No, non dico niente, adesso mi rimando un po' pochino così. E beh, là, ci sono. E là, vado a fumare una sigaretta e poi niente. Riprendi Luca. Sì, e parlo con il muro. Perché non c'è nessun altro, c'è Antonio. Aspetta a mangiare Antonio. No, bella, buon carica a tutti, dai. Allora, anche io ci capo, ma strappi delle labbra. Beh, certo, cioè, se me lo incagliata, ma c'è, ho visto che veniva pesante, già, ma tu dici, mi fatto di dare un Federico, vale. La facciamo a filo, era già praticamente a filo d'acqua, vado a portare luce, stacca, si è staccato. Mamma mia, un nervoso, guarda, un nervoso, non te ne dico. Ma questo è un bel topo, mamma mia. Topo lì, qui di fuori a casa di circolo. Carità, è passeggiato un'idea all'interno proprio. Perché se mangiano l'esca, lo sapete? Una volta stavo pescando di notte, l'ho sdraiato in terra. C'avevo una specie di sacco a pelo là. Ho messo un contatto e sono sdraiato perché ero un po' stanco. A un certo punto mi hanno visto Zanroni, e via, adesso mi ho pigliato. Già. Tu io, questa giornata sta male, sta un male. Sicuramente il primo era una sicca, ormai grande, grande. Poi ha perso tre Alessandro, sono staccati, staccati. No, guarda, quello che ho preso io ormai grande, già, un bel. Si diceva una volta che il mulinello la pistola era chiusa, mi girava a vuoto, però piano, facevo due giri e tiravo, poi si è attaccato, e vabbè, pazienza, vuol dire che devo andare così. Bello, succede. A me quella latta che mi è scappata ce l'ho ancora sullo stomaco, non ci credi, sono fermato per più volte per cercare di prenderne una bella grossa così, non ce l'ho fatta, per pazienza. Trovate maledetta, se la prendi bene vai tranquillo, non la prendi, se la agganci male dai l'opportunità di masticare la lenza, andare giù. No, quando l'ho preso io la cancetta bene, vedi, a voglia, due rami d'acciaio, e domani si sacca. Aspetta già un attimino per prendermi un paio di biscotti, va. Ai ai. Comunque vi siete dimenticati di me. Oh, scusami Natali, io pensavo fosse andata a mandicare per due. Riprendi. Ma sentite Gianni, sentite che siete fidanzati. Ah, ti prendono per la sua fidanzata, boh, non l'avete compreso, sono come un ugueo. E dopo la parte femminile ti ha dato, non ho capito. Sì, sto già attento. E c'era che... Comunque là, almeno lui porta dei discorsi seri che si possono trattare. E quello sì. Oh, E vabbè. E questo è vasto come discorso. Questo è molto vasto il discorso sull'amicizia, perché molta gente dice amico io, magari un conoscente non è amico, e amicizia intendo una cosa profonda. Esatto. quanto ha bisogno il caro Gianni. Ma già non te ne ho avuto io, non è un'idea. Solo ho bisogno, solo, solo, pure. Vai, vai, taglia la corda. Infatti, la corda l'ho tagliata, è come. E infatti Benito questi cammini tutti in mano, ho detto perché si vuole muovere il bisogno, si ha preso tutte le fotografie di amici in mano. Sì, gli amici sono veramente bisogno, infatti attacca tutte le loro fotografie nel bagno. Senta, bubù. Senta, mi sembra che quelle due fotografie sono in cosa, in sala radio, le trasferisco in bagno adesso. Ma la bagnaccia avrà anche la mia, no? No, la sua non ce l'ho. Paga, non posso immaginare che sia. Oh, via. Ma comunque a parte gli scherzi tu. Amici veri ce ne pochi. Gli altri dice dove le ha avute le delusioni. Un amico gli confidava le cose e poi le raccontava in giro. Via. Guarda, non so scherzare, a me veniva lo so. Esclusivamente per piacere, ecco. E poi stai bene, stai male, sei morto, sei vivo. Quando un amico piace si rifà anche, però non deve essere esclusivamente fatto solo di piacere, l'amicizia. Deve essere di piacere, deve essere anche di donazioni, di aiuti, di cose, capito? Come aiutavi tu dovrebbe essere anche l'altro a darti una mano. Anche una mano di conforto che tante volte ci vuole, perché l'amico serve anche per quello. Non mi sono spiegato le mani, non ho vita, ho lavorato. Quando avevo i soldi in tasca venivo anche a mamma a casa. E riusciamo, andiamo a farci qualcosa. E quindi di no. Se non vuoi di Napoli, se no, ti chiamavano. Lo so, purtroppo la gente è molto... diciamo che pensa molto a se stessa e basta. Infatti gli amici c'è pochi se ne trovano. Io amici ne ho, però molto pochi, si incontrano sulla punta di dita. Ne ho uno di amico di quando avevo 14 anni. No, no. Ne avevo uno praticamente da quando avevo 14 anni, ogni tanto ci sentiamo, però ognuno diciamo che prende la sua strada più alla fine. Capo, io ti parlo di 10-12 anni fa, e uscivo a sabato andavo a divertirmi. Se ne trovai 3-4 del mattino, ma tanto se ne credete, dovevo dormire in macchina. Per dire, no? Non uscivo, sono venuto in macchina, ma ci ubriacato. Per dire, mi veniva, io organizzavo, ma dove non ci andavo voi? Io non vieni, non c'ho su, lì, vado nelle mucate, dico, non ti preoccupare tu. No, solo non ci andavo proprio. Poi molte volte capitava che non... cioè quel sud dici ma non ci andavo. E già... poi andare a questa parte non faccio più niente, no? Proprio zero. La verità non cercavo, no? Portavo con loro, pizzeria, per dire, no? Portavo con loro. Ci organizzavamo, dovevo pizzeria, oppure qualche locale, localino, oppure magari qualche scampagnata per dire. No, su quello, però ce n'è stato più di uno che ci cercava solo per comodità e basta. Prego, me no. E quelli ci sono sempre. Cercano solo esclusivamente per questo, basta. Se amico solo da insieme tu. Infatti, ne rimuovo un braccio, già. la somma sono sempre delusioni. E allora tu come ci andresti? Trovando un'altra persona che sta per diventare lì, faceva i piedi di piombo, come ho detto io vado con i piedi di piombo, poi gli do anche il cuore, se mi accorgo che la persona è in gamba gli do anche il cuore. Ma io lo so, ragazzi, un tipo è quando se mi chiedo un favore lo faccio, perché no, siamo a contraccambia, va bene, cioè, perché dico, me l'ha contraccambiato, la prossima volta che capita, sì, perché no, pronti, però, se vedo che io faccio un favore a te per dire, io ti chiamo favore, tu me lo neghi, no, taglia tutto. Purtroppo molta gente pretende ma non va. Però l'amicizia anche è quella che bisogna dare senza pretendere di avere. Poi se l'altro amico vuole dare può anche dare, però non bisogna pretendere, se uno se lo fa lo deve fare con il cuore. Poi senza aspettarsi niente. Poi se l'altro amico per dire, è riconoscente, alla prima occasione ti contraccambia, però non bisogna mai pretendere, secondo me. Lo so, vabbè, non deve pretendere, no, vabbè, ci mancherebbe. Già, comunque, guarda, io sono il tipo, fai tutto, mi arrangio in mezzo a Dio a tutto, nel mio piccolo mi arrangio, la verità. Capita che trovo un amico, no, non voglio niente, per dire, no, non voglio niente, ma se so che quello mi ha fatto un favore, no, non ne accetto proprio, per dire, se no, non ne voglio, ma no, non ne voglio, perché non ne prendo già, però se capita magari un amico, non ne prendi niente, no, 5 euro, 5 pezzi di sigaretta, ma le sigarette le vuoi comprare, neanche quello fa, per dire. Sì, sì. Diciamo che a volte sono meglio le persone strane degli amici, conviene più fare un lavoro a una persona strana che a un amico, perché la persona strana gli puoi chiedere quello che ti deve dare, invece l'amico ti viene più difficile anche. Deve essere lui, toh, ci vuoi per le sigarette, vaffanculo, non vuoi niente, toh, ma questi qua, però se è la verità, che lui mi ha fatto un favore grande, non ne accetto. Vabbè, però insomma non tutti sono così. Purtroppo l'amicizia è una cosa molto seria e molta gente non sa mai cosa vuol dire amicizia, con la maiuscola. A tali. Anche io penso così. Perché di conoscenti ne ho tanti. Ma mi si tu, capito? Infatti anche io sono così, molti conoscenti, solitamente io frequento le persone quando vedono che si comportano bene con me, che si fanno vedere le persone come si deve, capito? Allora ci diventa amico, ma se no... Io accorgo poco a poco che mi stanno per trafiggere. Prendo e mollo tutto. Come fa? Un bel affare sì. Tanto, meglio perdere che trovare certe persone. È un discorso vasto, però il nesso è quello. Gianni dice non devi andarci per più di piombo, è come se ci vanno più di piombo, dopo che hai delle fregature ci stai attento, no? Cioè non è che ci vai a ricadere, è come quello che, come ti posso dire, si droga, poi smette e ripresentano la droga di nuovo, cosa ci va, ci ricasca, no? Ci va con più di piombo su certe cose, si allontana. Sì, perché affetta, sì. E infatti, la maggior parte delle volte c'è il casco. Ebbene, noi già ne sappiamo qualcosa. Io ne avevo portato uno in overdose. Sono arrivati i genitori. Cosa c'ha mio figlio? Era troppo in overdose, non so se sapesse che si faceva. Ma mio figlio aveva smesso da 10 anni fa, adesso stava lavorando, era tranquillo, questo e per l'altro. Gli hanno rubato anche il giubbotto, mi hanno detto gli amici. E cosa è successo? Che l'hanno ritrovato gli spacciatori e a forza l'hanno fatto rifare. E gli hanno ripiegato il giubbotto per la dose che gli hanno dato anche. Figura. E l'hanno abbandonato, no? Abbandonato è un'overdose, ma un'overdose brutta, però ce l'abbiamo fatta così, così mi ha salvato, l'abbiamo massaggiato pure. Comunque, sono stati un bel casi del genere, tipo 5-6 anni, 10, 8 per dire, no? E poi ci ricadono. Come la frequentavo la gente lì già? Poi vabbè, se non lo vai poi non lo fai, eh. Ora sei obbligato, o ti obbligano gli altri a farlo. Proprio così. Ma devo dire che comunque gente ne ho conosciuto tanta io. Tanti, un bel. Solo per il bisogno. Mi avevano che cerco, adesso. Porta un po' di mobili su a casa, a te no, pronti. Ma tanto che non a dire sto 5 euro, sto 10 euro, nulla, grazie, con grazie, spero. Alla prossima. Ehi, ma ti senti vuoto, con che posso lavorare ti senti un vuoto proprio, come sei preso per i fondi. Se ti faccio un guru, arrivati. A me non fa la portata, ma stai a lavorare, ma ho detto no, niente, c'è a stare, figurati. Non c'è problema per quello. Ma esaviva. Ma lo sai che sono così, dici che si è impegnato per un po' da gara. Sai che sono così, dalle volte che lavoro sono più finiti. No, non la ripeto. Se so che mi ha fatto un favore, certo, perché no, anche quello mi trocco, la verità già. Ma non mi permetterei mai di prendere, se mi mette in mano i soldi, non ne prendo, perché se mi ha fatto un favore già, capisci? Non è che sono di quelli, no, assolutamente, è capitato, perché no? Insomma, mi ha fatto un favore, assolutamente, no. Ma se ti posso dire, può capitare, no, un pacchetto di sigarette, se vuoi, prendo, perché no? Però se non dico... Infatti, quello del pacchetto di sigarette è fatto mettere un regalo, diciamo, di così gratificazione, perché gli ha dato una mano, ecco. Ma non per, non è una questione di paga, la questione è di amicizia. Infatti, è quello. Però vabbè, non c'è problema. Lascia tu prendere un esempio a Claudio, tutti i piaceri che mi ha fatto. Non va a fare il trasloco, lo chiamo. Grazie, qui lo chiamo, non c'ho problemi. Ma lì non smetto di rilevare a fare una cosa del genere. Mi ha dato una mano, non mi ha chiamato. Poi mi sono un po' incantato, te l'ho detto. Ehi, ma boom, va, bimbo. Ho fatto vabbè. Io la voglio avere tranquillamente, per dire, per farti un esempio già. Lo so. Lo so. Ma... E via. Sta volando, ma... No, volando sta. Sta volando. Ehi, lo sai che cosa c'è? Che molta gente ne approfitta. State bravo, non mi domanda, Lina. Mai, non riusciamo mai con risparmio. Ma io per dire, a volte sono andato a lavorare in campagna da amici miei, così per fare un favore. Per dire, non mi hanno mai lasciato senza frutta, verdura, tutte queste cose che dava la campagna. E in più mi hanno anche pagato il ritratto a pranzo e tutto. Lo so, discorso, ma vabbè, non c'è problema per quello. Già, così, ce ne sono tanti, di buon cuore, tanti, no, beh, però gli ho fatti, li ho trovati sempre anche di brici, per non spendere mai, che ce l'avevo anche i soldi, per dire, dicevo, per dire, 12 euro, proprio, qua ho fatti vedere qualche volare, per dire, no, ha capitato anche gente qua vicino, senza un digitale, quando ti lavorare, ah, faccia lì, non c'è problema, dici io, va bene, va bene, benissimo, perché mi dici grazie, ma io non l'avrei preso neanche niente, ma tu faccia lì, non ho problemi io, ti va bene, dici io, ma va bene, perché no? Ci sono anche poche. Già, però niente l'ho fatto. E infatti, quello è importante. Ma la gente, quella più povera, è quella che è più comprensiva, perché sa cosa vuol dire guadagnare la lira, diciamo l'euro adesso. Vedete, vai a ribatti, per quella accusa, diciamo a te, pa... capito, e lui io, gli anni, siamo messi a capitati, 10 anni fa, 15 anni fa, mi dava una mano, un colpo di mano, vabbè, allora te ne dico una, mi è capitato qua in zona, proprio un trasloco, mi ha dato una mano, mi fa, dopo ho fatto una bella sudata, bella, bella, una bella sudata, praticamente la piano terra, il primo piano. Ho finito tutto quanto, e ci vediamo al bar. Ma sai, abbiamo fatto questo qua al bar, la Coca-Cola. Per dire, vedi? Non è che mi dice, oltre a volare, nulla, ma è tutto qua. Ma cosa vuoi da bere? La Coca-Cola, devo che sai la verità. Ecco, comunque ce ne è uscito. Un trasloco, C'era un amico. Oddio, l'amico. Vabbè, diciamo che era un amico, no? Dove era l'amico? Facciamo un po' di cosa, un altro trasloco a lui. Buoni, buoni, buoni, buoni. Insomma, prima c'era la lira, almeno 100.000 lire a testa, 100-120.000 lire a testa, eravamo in quattro, non pagava nessuno, perché io ero un amico, l'altro era il fratello, l'altro era il figlio, l'altro era l'amico del figlio. E insomma, sono uscito un poco da, con una Coca-Cola. E purtroppo io, allora, magari sono aumentato pure il bambino. Beh, sicuramente. Ma mi ha fatto pure una cosa che ha firmato la Coca-Cola. Volete mandare la tazza d'Eva? È quello al rubinetto. Secondo quando me l'ha fatta pagare, cazzo, magari cazzo c'era anche questo piazzo. Vabbè, che poi non ci vuoi squadre. Ma sai che devo andare incazzato, non è un'idea, ma no, guardati, qua ti devo dare, qua ti devo dare, oppure sto, ti dai la mano, sto, ma tu dici che ti mi dai la mano, mi accontento lo stesso, almeno, fatti furbo, no? Tu hai ragione, però purtroppo sono le persone che approfittano. Ma comunque, io lo so quello che ho fatto. Mi chiamano la mano, pronti? Perché no? Poi se ti vuoi la che cosa, no, beh, se no, fa come vuoi, non è che... fa la portata, ma no, non sono i soldi. No, perché io però, cioè, non ne ho problemi. Ci vengono, no, non sono i soldi, no, va bene, perché no? Ma che la nuova mano? Ma ci guardi chi che passa la mia edina? Nuda, zero per forza. Sono questi che sono più pericolosi, che vanno di là, trovatene così, questi sono frigorosi. Sono questi normali che non trovatene così. Anche io ho imparato a conoscere certa gente. Favori qui, favori là, alla fine, tanto ho smesso. Tu? Da poco ho smesso. Qua in zona, da poco, c'era tipo 2 mesi fa, 3 mesi fa. Una mano a scaricare un armadio, una mano a piazzare un armadio, e l'altra una mano al quarto. E mi fa, ci vediamo al bar. Manca mi va pagato. Ma voi siete visti? Beh certo, manca mi va pagato, ma curate mal dito. E allora per fare ci vediamo al bar, buh. Buh, guarda la letto. Cioè, ci vediamo al bar, eh. E bella come siete visti? Non è manco un tempo qui sono. Devo visto, buongiorno, buonasera. Peppa, non è mai di quanto devo dare. Mi metto una cosa. Quello non ti ha visto la camicia d'acqua, giusto? Ah, ma un dominio. È buon grezzecco. Che ti fa, è buon grezzecco. Non è grezzecco, no, è canificio. Vabbè, mi sono fatto capire tante cose, vedi? Faccio per esempio, no? Ora mi è capitato di lavoro, io prendevo 50 euro al giorno, come ma non vale, c'è anche chi ne prende di più, come ma non vale. Mi chiamo questo qua, mi fa, ma dove trovi? Dice, ma tu dove vai in cantina a travagliare? Sì. E ma tu vuoi? Ma tu mi hai 83.000 lire al giorno, vabbè sempre in euro, no? Sono 42 euro al giorno, se no vado di tu visto. Beh, ci vuoi qui, ti do 40 per in macchina con me, e ti fanno la moto mia. Ci vedi, ti do 40, però fai con me. E comunque, sicuro di due ci ha tenuto. Ogni settimana si deve fare i soldi del... Ma ti ricordo, sono 10 euro. E poi sono andato. Oh, come avete andato, Due euro con il viaggio, Fatto male la rendita praticamente. C'era una panda non consuma niente. Era da qua a coso, al canile che ci accarica. Quella macchina rimaneva ferma. Poi da lì rientrava a casa. Cosa consumava? Parlare tu. Vabbè, Peppa, non so quali ti dico, è la pura fretta. Guardi, come ci do io, lui, infatti io, non dico che mi chiamo Magna, ne aggiungiamo altri due per dire, ne spendevo due al giorno, ma ci impingo quasi in carati a mappa Magna. Dico Magna, ma su, pane e mortadella, ecco. Pane e mortadella, tutti li dici. Tutti li dici, sì. Prima ricavo una frutta pure a casa. Mamma mia. Sai quanti cazzo magari sono come lui? Mangiavo panini, sì, prosciutto, prosciutto e fontina, salame e fontina, poi portavo anche la frutta. E dove va via, pane e mortadella, e ora pure la leva, boh. E le domande, mortadella e pane, cazzo che bella vita, boh, per carità. Ma male si comprava anche l'acqua, meno male. Allora non quello. E poi sigarette a ruota di collo. Yes. Ho una persona che mangia ogni giorno mortadella. A me non so, ti dici da un altro. Ma ci vuoi fare passare per fare i box per i cani, no? Mi fate passare l'intonaco, non la carriola, la paletta. Ah, io ho gli altri, sei indietro di 30-40 anni fa. Cioè, cazzo, compri una frusta, un trappano, non sai che te ne faccio quanto ne vuoi. Mi voglio 2 ore e poi non impasso, mi per fare. Ma voglio di 2 ore. Quelle prendi 20 minuti, ma te la prova a liberarsi, faccio una botte, due girate, fatto l'impasto. E allora tu gli dici, secca in culo. Come hai fatto una carriola, ma non c'è una confine. E lì ti ho preso. Secca il suolo, amaro. Faccio pure io, ce la fracchino, figurati. Beh, guarda, c'è una gente schifosa, non vuoi. Guarda, io dico che l'ho fatto con gente proprio un po' che fredda, ma il coso ce l'aveva sempre quello lì. Con trappano e facevi in fretta. Quanti ne vuoi? Mi passano due sacchi, pronti, quanti cerchi mesi, tre secchi. E abbiamo preparato, ce l'avevo già pronto, avevo iniziato a intonaccare. Ti ha già servito lui per dire. Ma ci trovo anche io la faccio una paletta. Ui. Poi non mescola bene. Mescolo il girafracchino, che è spuglia. Io ce l'ho perché non so per cosa lo usi. Quando avevo pitturare mi diceva la tinta. E ieri, vabbè, era lo stesso. Devo stare lì a travasare da un milione all'altro. Anche mezzo capitani per qua, io non è un'idea. Cazzo, basta quando non si muove il cane, brutto. Cioè, chi è che non c'ha questa una semplice attrezzatura, non è che sia niente di sofisticato, ma addirittura va anche di passare dentro la coppia, dentro la carriola di sci, a mettere il riquissermo, brutto, cazzo. A parte che era tutto un tempo risparmiato anche per lui. Vabbè. Per Paolo, non mi chiamo Paolo, io sono sempre il primo. Non mi chiamo mai indietro, mai. A meno che mi sento male, per dire, devo fare cosa. Devo fare cosa urgente, allora gli dico, non devi aspettare. Però no, non gliela do. Capito? Ma ci c'è gente che trova sempre scuse. Ma non è quello il problema, no. Ma lo faccio io, chiamo un altro per dire, non è quello. Ma comunque, quello che dovesse capitare, non mi conta nessuno, lo posso e via. Così non sto a riattare dalla lunga. Non c'è problema per quello. Piano piano, adesso devo buttare l'antenna a terra. Come dice un po' di caldo, la devo mettere a posto, devo cambiare il pezzo dove attacca il PL. Ciao, che volta me la smonto io. Lo sai cos'è Luca, che quante volte uno potrebbe essere, che tu hai detto che lo prima faccio, ma dipende, uno potrebbe anche trovarsi in quel momento che non lo può fare il favore per un qualche motivo. Però è meglio non nascondersi dietro il motivo, vuol dire no, in questo momento non te lo posso fare. Io ci sono bisogno di sì, ci girano attorno, ho capito. Lo so. Assolutamente con un'altra. È capitato qua vicino di casa che si era rotta la moto, no? Aveva spaccato il motore. Praticamente aveva rotto i cuscinetti di banco dell'albero. E lui è riuscito a procurarsi un altro motore, un po' inchiodato, io l'ho sbloccato, perché c'era l'albero, l'ho bloccato, l'ho stoccato, l'ho sbloccato, i pezzi della motosua li ho messi in questo motore qua, che l'ha procurato lui. E vabbè, tiriamo la moto, l'ho piazzato tutto qua, bomba, bimbo. E quello era il minimo lavoro da... Guarda, buoni, salpottiamo meccanico, 200 euro. Fanno 150, avanti, 150 euro. Gli ho chiesto 60 euro, ma è già vicino Marco. E cosa vuoi andare? Non tutto. Vabbè, guarda, mi ha dato. Ma ci sono che è un troppo caro. Ma è puro. Tutta la giornata la moto, tutta la giornata la domanda, questa la sera, a bugioni per qua, perché l'avevo piazzata tutto quanto non partiva, sicuramente c'era nei travasi un po' di sporcizia, non so, non passava bene la benzina, non so, e poi sono riuscito a mettere la moto questa volta, non era un buon moto, andava benissimo, Vabbè, sta a fare che mi ha dato 40, quindi te li do. Ancora su qualvesti, mi dico. Ah, ecco. Quindi c'è rimasto anche il debito, oltretutto. Boh, non lo so. Certa gente, infatti, non si riesce a capire molte volte e vogliono, come si dice, no? La coppa che ha voglia di imbriaca. C'è parecchia di gente mica che vuole fare le cose così. Se poi non contraccambia nemmeno, anzi almeno contraccambio con qualche altra cosa. Nemmeno quello, capito, nemmeno quello. Non se ne mettono neanche in testa e non hanno nessun pudore di dire ma magari cazzo, se vi faccio vedere che sono più, faccio contraccambio o che cosa. Niente, non viene quasi neanche praticamente cervito. Ma per darli a te, ce li tieni in tasca, capito? Da poco lo stesso mi venuto a casa, ascolto mio, dice qua c'ho problema a telefonio che praticamente io quando cioè io sento bene, però chi con chi sto parlando non mi sente. Vabbè, stavamo te lo controllo, non è problema. Anzi no, bugia, no, non è quello. Era un altro telefonino caduto in mezzo alla pittura, questo telefonino qua. E mi fa, non funziona, non accendeva per fare, l'ho smontato, l'ho tutto pulito, ma proprio luce l'ha giubato, proprio nei punti più, insomma, nelle fessure lì, là. La scheda era tutta piena di tira, tutta pulita, bene, non c'è regia. Lo metto a posto, non so quanto, faccio lo squillo. Ma non era pronto di farle un addebito, non so, mi ha richiamato. Non so qual è il telefonino tuo, come mi senti? Ma non l'ha messo a posto lì. Sì, a posto. Guarda, passano a prendermelo, questo qua. Vabbè. Mi fa sì, oggi a lavorare, fatto 20 euro. Ora adesso vedo, ma fatta città, 3 mesi mi dai 20 euro. Anzi, bugia, mi ha riportato un telefonato, se io lo pulivo, ma poi ti mando 20 euro, da quelli 3 mesi. Ma Marco, cosa ha fatto ella per i 3 mesi? E se no altro l'ha fatto. E dopo ti ha attaccato un altro, ma ve ne ha confesso pure. Ma me l'ha dati, ma spiego perché me li ha dati, perché quando è venuto, per lei mi ha dato il telefonino che non lo sentivano quando parlava lui, mi aveva subito i soldi in mano, praticamente il telefonino che io avevo riparato, non il primo, non il secondo, a gratis, capito? Ah, ecco, tu hai il prezzo di uno, ho fatto, ho già compreso, beh, anche quella è una specie di furbizia, la risimedono gli amici. Grazie a Dio, è travagliente. Sempre assurdi. Sempre. Ma, immagina. Guarda, gente, guarda. Capisco mai uno che non lavora, ma ne frega niente per fare, la posso anche fare il piacere, perché no? Ma sei travagliente, cioè ti chiedono 20 euro. Allora, se tu vai in un centro assistenza, no? Io ti chiedono già 20 euro da lì, solo per guardarlo. No, 30 euro sono. 30 euro. Poi se c'è da spendere, da cambiare un pezzo che ci vogliono altri 20 euro, 30 euro, te lo ciambo e via. Io che sono 20 euro, l'ho messo a posto. E mi fa aspettare 3 mesi pure, ma vai. Cazzo, già, 3 mesi, cazzo, mio Dio. Poi la facciamo riprendere a qualche un altro che c'è. Prima sono carino e Gianni in panchina. Gianni invece abbiamo caso, altro che. No, non penso di Gianni. Gianni! Sì, no, chiamalo con un megafono. Cazzo Cappuzzo è Natali. Un altro Cappuzzo. Così è, purtroppo ci sono un sacco di cose che infatti io ho imparato nel tempo anche a rinunciarci, soprattutto alle persone che conosco, perché no, a volte bisogna dire di no, perché quando ne fai una, ne fai due, ne fai tante, poi arriva un certo punto che chiedi tu una cosa e non te ne vada nessuno. Allora, ha svegliato un poco così la cosa. Ha detto no, però quando secondo che ha cambiato male, niente, non c'è più niente per nessuno. Infatti, è arrivato a questo punto, conviene dire no e basta, non essere lì, basta, facciamo roba, adesso, o non c'ho gli attrezzi giusti per aprire un telefono, per dire no. Io mi scherzo, non mi va, come fa? Dammi di là subito tu porto un telefonino, da tu vuoi, per dire, ti chiedo 20 euro, 30 euro, dammi, subito tu come, c'è un mese che devo di là un telefonino, noi stiamo lì a, cioè, non, non è che prendo i soldi anche se ti apro il telefonino, te lo pulisco, no, se ho portato, torno, ti do anche i soldi, non è quello il problema. Vabbè, non mi rientri l'occhio, ben fa, non va. Adesso proprio qui si non ha le dividate, niente, guarda, è proprio vero, è la pura verità. Sono proprio quelli che non ne hanno, non ne diranno lo stesso insulti. Perché così, a me è capitato gente, insomma, è arrivato per vivere, te danno, cioè, mi è capitato allora a pitturare una villa per qua, una villa a 2-3 piani, tutta pitturata, io ho pitturato una villa a 3 piani, vabbè, ho fatto, diciamo, non tutta, ma quasi, e ho sparato tramite amici, ma non faccio quanto una villa così, quanto le posso prendere, e almeno 800.000 lire, buoni buoni. Io ho sparato questo qua, 800.000 lire, e me ne ha messo in mano 400. Dice, quanto c'è fuori di testa? Ma a me mi prendevo anche di meno. Ma perché chiamate a me, scusa? Perché chiamate a me? Ma sai come? Questo vuole i soldi, mi. A me c'era il supermercato, lui stava bene. Stava bene. È uno che c'ha una guida del genere, due gommoni, ma due mega gommoni. Poi macchina BMW, l'ultima serie. Hai capito? Mi ha messo in mano 400.000 lire. Sì, guarda, quello è così, non lo so veramente, ma niente, grazie faccio da lui. Uno, perché magari tu sarai anche così, come lo sono io, no? Alle volte non so dire no, però bisogna impararsi appunto proprio a dire no. Il non secco fa male, però bisogna imparare, capito? Capisco uno che non è a fanculo, gli posso fare il favore, no? Però se tu sai che quello non vola, c'hai i soldi, e vai, tu vado a un piazzeri, no, cioè ci deve arrivare da solo, cioè vai di Napoli, no, non è giusto queste cose qua, perché vieni da me? Sono pigliati nuda, papi, no? Ma comunque c'è un bel gente così, per non spendere. Perché sanno già quanto ci vuole, sanno già. Io una volta sono andato per qua, avevo un televisore rotto, no? Quindi via Montello. E ho detto, ascolti, passa così così. Cioè, un televisore che mi fa questo problema qua. E mi ha detto il tu. Devo guardare. Ma ti posso dire questo e questo, poi non te ne dicono neanche. Perché non te ne dicono. E mi fa, ascolti, sono per guardare quanto vuole. Io sono per aprire, lo voglio 20 euro. Che vuole? Insomma, mi hai dato 20 euro. Poi ti do la una cera, ma non la parte. Cioè, sveglio. E così. No, ma guarda, anche di recente una persona che io mi sono fidato, una persona che poi ci piace, studi, e anche i vari possedimenti anche, mi sono fidato perché dice che al momento era di sabato tardi e non ci aveva nessuno, che lunedì me l'avrebbe dato. E questi lunedì ci sono passati 2 mesi e mezzo. E io mi sono fidato, non mi ha pagato la bomba per 2 mesi e mezzo. E poi quando ha chiamato, che gli avevo detto che c'era la bomba da pagare, che io mi sono fidato perché era una persona che conoscevo, tutto quanto. Tanto mi ha preso anche a voi, lo sai, come mi sono permesso di dirgli una cosa del genere. È arrivato a questo punto. E qua. Non lo so, guarda, non so cosa risponderti. Comunque c'è un bel gente che fa così, comunque. Tu vedi una cazzo, un busciaccara. fanno via, arrivati, e poi tu vieni a me a dirmi, cioè, ah, stai scherzando, ma vai. E un bel per qua, un bel. Insomma, ti autoradio piantati ora le macchine, gli amici, non è un'idea. Così è più che erano, cioè, è quello che ti sto dicendo, cioè questa persona che ti ho detto c'ha casa in affitto, c'ha negozio, cioè non è che è una persona solo vista, eppure al momento della necessità io ho agevolato perché non essendoci il padrone vero e proprio. Siccome io ho una certa fiducia mi sono permesso di darlo. Però è una cosa che mi dà fastidio, perché se non pagare io devo pagare io. E quando gli ho detto queste cose qua, gli altri si è anche offeso, ma non ho fatto le voci, capito? Lo so. Lo so che fa. Cosa ci vuoi fare? Ammazzarlo voi. No, lo scopo è però, capito, la prossima volta, purtroppo, uno diventa duro con tutti, poi perché diventi diffidenti con tutti, allora poi quel famoso no secco che ti ho detto poco fa, uno alla fine impara per forza, se impara a fare di no secco pure se è brutto, però insomma arrivato a un certo punto uno si deve anche tutelare, perché inizi a pagare una cosa durante ogni mese, due, tre, quattro, allora diventa pesante, allora ecco che arriva il fatidico no, e purtroppo non ho imparato a mie spese alla fine e lì no, basta, finito, capito? Questo qua secondo me ha sbagliato, perché sa a chi rivolgersi la prossima volta, come c'è, si è fregato da solo, perché lui dice, se tu vedi altri gruzzi che ti fa un favore del genere, è un favore molto grande, molto, molto grande. Poi lo bruci pure. No. E per qua. Cioè come se mai ti capita una volta una persona magari che ti dà ancora una e dice mi, io tra le giorni ti do insulti. E magari ti dà, tu dici no, guarda, ho avuto già l'esperienza, non ne fai, per dire, ma è il tipo che ti dà tra le giorni. Ah, a me una volta un amico, guarda, piccolo balle, mi stava prendendo la patente. E questo veramente è un amico, la vita. Su questo, favori me ne ha cambiati tanti, Però più io sempre, più io. E stavo lavorando lì ai parcheggi di via Italia, dove c'era... non c'era Lupin, la strada prima, adesso c'è quel, non so come si chiama, la vedo lì comunque, è riuscito famoso in teoria, e siccome dovevo fare il passaggio dalla motorizzazione alla scuola guida, no? E mi servono 300.000 lire, chiamo questo amico e ho detto, ascolta, devi fare un favore molto grande, dimmi tu. Mi servono 300.000 lire, perché devo fare il passaggio dalla motorizzazione alla scuola guida. Poi a Meglianatti, detto io, tale giorno, ci mancavano pochi giorni a tirare. Guarda io, tale giorno, vengo ti do i soldi, 300.000 lire mi stai prestando, 300.000 lire ti torno. E me li ha prestati per fare. E io tale giorno, per dire, ci mancava una settimana, per dire, lunedì, ritiro e te li torno. E così è stato. E la metà me li ha dati, ha servito, molte volte la macchina, tante volte me l'ha prestata. E non è tutti che la prestano, la macchina gli ha pagato 25.000 euro mi sembra, la Golf, l'ultimo modello. Perché quando nel mese è meglio comportarsi bene, perché non si sa mai, la vita si possono sempre come fare dei favori, anche riceverli, e quindi uno si comporta bene sempre meglio. Purtroppo però non sono tutti così, no. Ne so carogne, grazie che ti fanno a pezzi, capito? Ti fanno a pezzi, non c'è niente da fare. Io di queste fregature, sai quanto ne ho avuto, cioè raccontarle tutti, io vuole dire di. Vabbè, cosa ci vuoi fare? Ma a me sono capitato un bel, non conoscendo lo stesso, c'è uno scooterino, un Honda SP, sicuramente non ce l'hai presente, con uno scooterino, papà voleva la moto per perché gli piaceva, lui mi ha, in cambio mi dava uno zip. Praticamente è messo quello. Insomma, non era vecchio, dai. Però c'erano i pezzi spaccati, ha detto, vabbè, io ci sto. Vabbè, è stato fatto che mi ha la moto, la moto non trovava il libretto. Cosa fa questo tipo? Gli altri la moto alle 4, alle 4 e mezza la mia moto, tranquillissima, alle 4 e mezza ce l'aveva già slacciata, beh, va data praticamente per un cellulare e pare chissà cosa si dirà con un naso, parole povere. E vabbè, mi da, di domani mi davo questo libretto, praticamente era una fotocopia fatta a penna. Questa moto qua c'aveva i numeri sotto la pedana, mi c'era quella al fianco, no? C'era la targhettina con i numeri. Vabbè, e questa moto qua praticamente l'ho tutta rimessa a posto, diciamo, ho messo la batteria, ho messo a posto i freni, tante cose ho fatto. L'avevo riforniciato tutto qua, da roba nuova la moto, nuova, una città nuova veramente, proprio da vetrina era. Vabbè, faccio i documenti per farmi il libretto nuovo, perché questo tipo mi aveva garantito, mi ha fatto anche lo scritto, l'ho scritto così senza essere autenticato. Faccio i documenti tutto quanto, e di solito ho messo anche le strutture, diciamo non passo. La prima barrica, diciamo, tra la curata. Infatti tu mi hai detto non sappia nulla, capito? La moto... Allora, praticamente di quella moto lì ce n'è un'altra con gli stessi numeri. Infatti quando mi hanno messo la moto su... come si chiama? Sui rulli, per vedere se faceva meno di 50 km orari. La moto, vabbè, è risultata buona, andava bene. Ma mi hanno chiesto dove sono i numeri, ma i numeri sono qua. Però l'hanno fatta una uguale loro, dopo c'ho quei numeri io, però la targhettina loro l'avevano tagliata in questo zip, invece la mia moto c'era, erano cancellati ma c'erano. E lì mi hanno chiamato gli sbirri, guarda, non dico mi hanno arricciato, ma quasi. Beh, tu mi hanno avuto detto che era lì, sono, che te l'avevi venduta, cos'è? Ma che volte mi chiamavano il cognome, di che ragione, a me mi hanno venduto la moto. Cazzo, perché sennò devi potersi passare come ricettatore. Così passi come ricettatore? No, no, l'ho fatto uno scambio io, ma l'ho fatto uno scritto per qua. Uno scritto mi ha fatto. Io l'ho sottoscritto, bomba, era alla polizia che ho dato questo foglio. E gli ho detto pure chi era. No, già un posto, devo stare chiaro io, non saranno. Perché lui mi ha dato una moto tranquilla. Secondo lui, io gli ho dato la moto tranquilla comunque, al mille per mille, perché era di un amico con la moto lì, l'aveva giù bagata, avevo pagato la moto 500.000 lire, perché sì, mi avevano rubato la Pianerotto, no, ho preso questo scooter, perché stavo lavorando lì a Pradanieta, e mi serviva un motorino, siccome aveva la moto, sì mi piaceva, però mi ero stufato di questa moto qua, e volevo un altro scooter, uno zip. Infatti ho trovato la moto qua, faccio così, così, così. Mi ha fottito, mi ha fregato. Mi ha fottito. Cazzo, ma fregatura davvero, mica. Madonna, però male c'avevi anche questo scritto, perché senza prendere le cose così, delle volte, è più una condanna per ricettazione che per altro. Cazzo, guarda, poteva andare proprio male, va. No, ma non è ricettazione per qua, perché io non l'ho comprato, ho fatto scambio, è diverso. Ehi, no, ma dico, era male che avevi questo foglio e l'avevi presa così, se no altrimenti se l'avresti pagata, questo passa come ricettazione, no? Pagato la passa come ricettazione. Dico, era male che è andata così e quindi te la sei potuta salvare. Ciao, cazzo, devi andare un bel male. Sai, io sono andato lì, vicino di casa, dovevo essere lì alle 8:30 la motorizzazione. Ho aspettato lì, praticamente a casa sono rientrato alle 3, e le 3 erano. Guarda, tipo come bongura, quindi diciamo che la felpa nuova era anche la volpa era riverniciata, ma l'ha fatta un amico, poi non l'ho neanche pagato, ma l'ho pacchetto 150.000 lire, ed cioè senza moto non trabo su bagagli, infatti non ne avevo pagato, aveva messo tutto lui, vernici, tutto, c'era tutto praticato questo qua, era nuova. Quanto qua si uscì, alle 8:30 era sicuramente dalla sera alle 3 a casa, più ci può stare in questura. Perché naturalmente avevo dovuto fare l'accertamento, c'erano delle letture, magari sono andati a cercare la persona e cose, quindi il tempo ci sono voluto. Allora, qua ti è andata molto bene, molto bene, sei stato fortunato della sfortuna. Poi per quanto riguarda la moto, magari ci sarà rimasto male, però cazzo, meglio che sia andata a finire così, va. Infatti, vista molte volte, ed è un conoscente questo qua, è un conoscente. Poi vabbè, c'è stato anche un coso, come si dice, perché lui questa moto qua l'ha comprata da questo tipo qua, gli ha detto vabbè portare da questo tipo, ti ha venduto la moto, andiamo da questo tipo così, la moto è tranquilla, la fai tranquillo, perché ripeto che mi ha fatto la motorizzazione, bimbo. Poi c'era arrivata lì questa moto, mi sono ripeto che mi ha fatto uno scan. Vabbè, a te che non ti è sembrato strano questo libretto da chiarire me. Era un libretto fatto appena, un pezzo un po' carino. Tanto era mi ha detto, scusa, ma portami l'originale. E magari da lì te ne saresti accorto subito. L'originale, per qua non scappa, come fai? Lì era praticamente un foglio di quaderno, lì. Più o meno, un foglio di quaderno, fatta a penna, col timbro, tutto quanto, fatto bene, era un po' così, un po' vecchiotto, dai. Cioè, comunque, quando mi viene portato il foglio, si rovina, tutto quanto, non era neanche plastificato. Ma puttito, come? Se vuoi dare le due da mezzo del mano, mi sa molto. Infatti, quando l'ho vista un'altra persona che conoscevo, però come fatto... L'ho fatto uno scambio adesso, se me l'ha venduta per poco questa moto qua. Ho un telefonino vabbè. E così niente. La moto, ne avevi visto una moto. Poteva la moto la mia, ma di Twitch. Ho dovuto un po' su vannuta. E se mi ha fatto pure appena lo scuro. Da che tu poi non sei andato a fare le sarcine almeno. Almeno il costo della tua moto. Che fa, ormai ha già perso in pazienza, ho già perso, infatti io a polizia gli ho detto guarda la moto ma oggi ho venduta, ho fatto scambio con questo ragazzo qua, ho fatto anche uno scritto anche se non è autenticato, però e lui gli ho mandato a casa, infatti anche lui ho passato un po' di casino, ma non gli hanno fatto niente, è strano. Da qualche parte questa moto è stata rubata e qualcuno ci spiace e io cazzo l'avrei citato, recitato l'esercimento dei danni, ti avrei sentito. Ehi vabbè, cosa vuoi fare? Purtroppo è andata così e oddio, è andata bene diciamo dai. A quanto ho saputo io, mi avevo messo un verbale di 1.000.000, 1.200.000 mi sembra, e basta, e forse anche denunciato, dobbiamo informare veramente, dobbiamo informare, e vabbè, questa è la volta che ho non ti rifiare più dalla gente, no, non ti rifiare più, se devi fare una cosa della gente devi fare tutto scritto, scritto bene però, non dico come te l'ha fatta a me. Allora sì, poi se dovesse capitare che ho rubata una cosa lì, ho contraffatta, per dire, c'è indagini li passa di cara, non tu. E vabbè, su queste cose, però purtroppo, non sempre vanno a finire come avete tu, eh. A chi dice da voi la ragione c'è in un'altra maniera, non la ragione c'è come te noi. Adesso questa ti è andata bene perché già avevi anche uno scritto due cose. Ma non è sempre così, no, oh Luca. A volte queste cose vanno a finire male, molto male, perché cazzo. Noi potevamo dire che ti va si piace, la dici, no, non ha ragione già così quanto noi. Lo so, queste cose qua si fanno con le carte giuste, non le carte sbagliate. Infatti ho quello lì, lo scritto, dovevo portarlo a far autenticare, così sarei stato più tranquillo, poi le responsabilità se le avrebbe prese chi mi ha dato la moto, la cosa. Vabbè, comunque si ha fatto uno scambio, ma fa male che praticamente. Guarda che io conosco una persona che è stata venduta una casa in pratica sotto sequestro del giudice per essere messa all'asta. Questo qua è riuscito a fare delle carte false e non sai che è riuscito, cazzo, persino a ingannare il notaio ed è riuscito a vendere questa casa che non poteva vendere. E chi ci ha rimesso è questo poveraccio qua, che purtroppo non è mai riuscito a avere il risarcimento. Però, cazzo, ci sono delle persone che sono veramente infami, cazzo, perché lui è stato l'unico a rimetterci. E ti assicuro che poi non ha avuto anche delle noie, anche delle noie. E di conseguenza anche il notaio, che è quello che deve, quando fa il passaggio, deve verificare queste cose. Ma il notaio si è cavata con poco, mentre invece, cazzo, lui è quello che ha pagato i più i soldi e poi che gli ha avuto anche le conseguenze, capito? Proprio quello lì si faccia arrivare un po' di soldi. È un casino anche qua, è un casino. Ma si ti fregano così, neanche te ne accorgi. Bisogna stare attenti, bisogna stare un bel attimo, non si fa una cosa, anche se un amico fai con le carte giuste, ce lo devi fare con le carte giuste. Non è che fai così usi, o uno scambio per dire senza fare scritto, ma la due era, cioè magari, la due è tranquilla che vai, chi c'è di testa, chi c'è di cudo è furata, e se ti pone in galera, e ti sei un po' punica. Ma adesso per dire, uno scritto che mi ha fatto, sì, vale, ma non vale, per la polizia non vale. Poi gli ho detto, ma l'ha vado questa ragazza a me. Infatti a lui l'ho detto, ma sei sicuro che stiamo tranquilla? Sì, non ti preoccupare, guarda, mi ha bloccato la polizia, ma stiamo rubato, no, non ti preoccupare. Infatti lui mi aveva detto, la moto mi diceva sempre che era tranquilla, ma beh, ti mando a svegliare a casa tua, poi sarai tu a dire a loro se la moto è tranquilla o no. Tu è così, se perché se non facevi così si sarebbero accaniti su di te, capito? E dice allora tu lo sapevi, magari dicevano che sapevi tutto, ecco. Invece se gli hai detto è tale che mi ha dato la moto, è tale che mi ha fatto lo scritto, tanto hai fatto un bel bene, almeno te ne sei scaricato, in parte te ne sei scaricato di una responsabilità. Però cazzo, e tu non hai mai saputo se ti hanno fatto niente su quella cosa? Ah, io quando sì, io non avevo messo un verbale, basta, perché non l'avevo mai pagato, non me lo pago, non so, poi se lui aveva, non so cosa gli hanno fatto a lui, non so un verbale lo stesso, non so per fare, non sono mai informato. Ah, ti citavo, c'è una persona, questo qua è un carabiniere, ma non lo su numero, una valla e mezzo, non so. E vabbè, è andata così, potevo andare peggio per qua, potevo andare peggio, praticamente sono rimasto a piedi per la seconda volta, perché il primo motore mi avevano rubato, e poi questo qua praticamente si può dire, diciamo che l'ho perso, ecco, come se me l'avessero rubato. Sono rimasto a piedi, E poi niente, mi è capitato di lavorare in questo, servizio, in questa casa, no? E c'era questo zitto sempre, mi sono tutto sporco, fermo da un bel po'. Mi sono informato di chi era questa moto qua. Era di un signore che abitava lì, era un po' incidentato da avanti. Mi sono fatto una settimana di lavoro, mi hanno fatto principale 180 euro mi sembra. Quel signore, io gli ho detto, se me la prendeva per 100 euro, ho detto no, per 100 euro guarda rimane lì, almeno 150 euro nel buio, almeno 150 euro, guarda la moto c'è la carena spaccata davanti. E niente, quella moto lì l'avevo comprata la volta il signore, che tuttora c'ho il libretto, perché quella moto lì me l'hanno rubata lo stesso. Lo zitto bianco ce l'avevo prima. Però ho preso una moto tranquillissima, libretto originale, con lo scritto fatto a computer, non autentica, c'ho ancora lo scritto di questo qua, è un signore grande. E anche quella lì mi è stata fregata la notte. Cazzo, insomma, non te ne andavo a avere una allora. Ma adesso ce l'hai ancora la moto. E quella lì, quella che l'hai vista, me l'hanno regalata, perché lo zitto me l'hanno rubato. Adesso la tiene lì fuori. Da lì ce l'avevano preso. Diciamo di sì, dai. Non è mai posto tu da metterla. Siccome sono così, pure le moto sono sempre a rischio, non lo guida. Da io ci ho sempre avuto il marciotto tono, sai. Che cosa? Ah, il pick up. Sì, ce l'ho ancora. E già l'ho visto. E già stiamo parlando di una cosa che mi è successa, ma come ti stai parlando poco fa di amici qua, amici da. Il fregatore li ho presi pure io, Giovanni. Ah vabbè, ho fatto uno scambio di motorino con questo qua, un conoscente. Praticamente la mia era tranquillissima, a 1000 per 1000, uno scooter. Invece la sua era risultata rubata, non solo. L'ho messa tutto a posto, ho fatto quello che devo fare, era gommata nuovo, freni, guarda, era un bombo con la moto, un orologio era, ho messo la batteria. Praticamente il libretto non ero convinto di questo libretto. Poi ho fatto tutti i documenti per fare il libretto nuovo e niente, questa moto è risultata rubata. È andata questo conoscente, io gli ho dato una moto tranquilla e mi ha dato una rubata. Guarda, ci ho perso un po' di soldi, un bel. Tu non puoi prendere una moto così senza che le moto direttamente fai una verifica. Secondo me c'è stato questo. No, cioè il libretto me l'ha dato lui, però questo libretto qua è un po' strano, nel senso che vabbè era un po' rovinato la vita, c'era il timbro della motorizzazione, però chi l'ha fatto è stato veramente bravo, perché il timbro della motorizzazione abbiamo saputo fare, non so come cavolo abbiamo fatto a farlo, e lo so già, non so, e vabbè, e lì ho sbagliato io, Ho sbagliato, e come si è sbagliato? La prossima volta ci penserò due volte. Ma forse in te si pensa una cosa buona. Perché c'è stato che non si gioca con i documenti cartacei di quell'entità che fuori, no? Ci vai a rimetterti tu. Non dico che ti mettono in galera, ma comunque sono sempre dato da pelare, io sinceramente per una amica non inserirebbe con lui, perché non capiscono perché le persone scambiano, fanno cose del genere. Io non cambierei mai da me, perché per lui sento con un altro, perché è la mia macchina per un altro. Il discorso non lo so quale sia, adesso lo vedi tu. Sarà che personalmente non ho mai avuto modo di poter scambiare queste cose scambiate, perché ho dato una carica, non ho ritrovato, ma è sempre, dico, questa maniera, controllando appunto l'esperienza sicura, non in questa esperienza incerta o indubbia. Dopo, insomma, guarda che una volta fa una fiamma piccola, viene messa sulla strada, ci sono tutti i fattori che concorrono a farti capire che devi stare molto attento. Sì, hai fatto un po' di più, effettivamente puoi giocare sulla tua buona fede, quindi lì ha capito senza che hai capito che non potrei essere mai stato un amico, ma questo non correlaziona a un amico, assolutissimamente. Ciao Luca. Lo so, mio parente qua. Ti saluto, che io vado a dormire, non mi racconto se l'ho fatto questo trattati. Per me domani è una giornata pesante, che è lunedì. Vi saluto, buonanotte a tutti, ci risentiamo alla cucina. Ciao, questa. Buonanotte, buonanotte, buonanotte. Ciao Peppa, buonanotte, a tutti, ciao. Ciao. Ciao. Saluto anch'io, mi stavo ascoltando. Buonanotte, anch'io chiudo. Ciao, buonanotte, buonanotte. Ciao a tua chiesa, buonanotte, domani, ciao. Grazie. Così è già. Gaieste, ho sbagliato, pazienza. C'è gente che ha sbagliato su cose più grosse, perciò io non posso lamentare. Ma comunque sia, questo qua l'ho scritto, me l'ha fatto, me l'ha fatto. Perciò non c'è problema. Giulio era convintissimo che la moto era tranquilla e infatti gli ho detto che la moto me l'avevano sequestrata, perché sono andato giù all'autorizzazione per fare il libretto nuovo, avevo speso 150.000 lire mi sembra, cosa del genere, per fare tutti i documenti e balle vari. Poi vabbè, l'ho rimesso a posto, no, guarda, ci ho perso un bel di soldi, un bel. E questa qua niente, tranquillo, una volta tranquilla, bimbo, ma vabbè, già ti arriverà la polizia a casa tua, tanto mi hai fatto lo scritto, io mi siamo a loro, poi già verranno loro a cercarti, infatti sono andati i poliziotti, poi non so le cose che hanno fatto, non lo so, mi hanno trattenuto un bel po' anche, un bel po'. Vabbè, pazienza, così è andata, devo qua. Sì. Non è cosa che non fa tutto. E perché una persona che deve essere considerata difficile. Io credo che questo ragazzo è un po' da più, no? Ma perché deve essere considerata difficile? Perché deve cercare una testa di melo che ti dà una moto, che tu viene da che cosa ti dà una, la moto tua che già fa te. Non capisco che cambio sia, capisco che saranno una utilitaria nuova buona per una moto d'epoca, ma è uno scambio così potrebbe capire. Non capisco il senso di scambio da moto a moto. Non lo ripensare. Non dico che tu mi disincontra, non lo so, però sembra che non cambia fatto. Anche per determinare certe cose, cosa è buffo, se vuoi dire non lo so, io ho la morte, mi dà la sua fatta per cambiare. Non c'è soluzione. No, adesso qua c'è un bel po' di anni, già un giorno. Sarà 5 anni fa, 6 anni fa, era un bel po'. Lo so, ho preso un granchio. No, ho preso un agente della cultura, stavo mettendo dentro. Tutti questi paesi come la Cina se ne fai un po' due mani, se fai una prima stessa, perché l'hai preso la mia. Quindi questa è una fortuna che si capisce che sia. Molte volte si diventano le cose grandi. Sono casini, sono casi da fare, questo. Ma è più una fissura, un po', altre cose, di vigilia. figlio e una sorella che si vengono a fare, ma chi lo si parla? Quello che avrebbe detto io sono fissati delle notifica con le cose, purtroppo non c'è quello per lui sa che la sorella non esiste, ma se ne non ha consenso andare a fare festa di un genere con un gruppo. Tutto fatto così, la prossima volta sarò più attento, dopo farò le carte giuste in regola, allora sì, altrimenti no. Perché se tu fai uno scambio oppure acquisti una moto e fai le carte in regola, proprio come Dio comanda, allora sei tranquillissimo tu, ma te non ti fanno niente, perché lui ti ha fatto uno scritto, autenticato, tutto quanto, ma te non ti fanno niente, fanno cosa chi ti ha venduto la moto. Ma l'ha fatto, non ne so, perché gli servono soldi, poi se passa casini non gliene frega niente. Ma a te non ti fanno niente, a lui fanno un po' di cose, un bomba. Io ho modo di ragionare, di certo che per me non si chiama giù. Tu hai una testa particolare, la cui le cose, qui mi spaventano, a me mi spaventano perché non mi riesco a non lasciare, no? Quello che una volta era quella di chiamare automobile, ma per me proprio più di voi è forse di dire questa mattina sai che c'è una macchina che dà un mese che c'è un buon video di 4 euro l'uno e si può rispondere no grazie ci spetta il mio meccanico, non si spera no ci spetta il mio meccanico, se non è andato troppo ecco ci avrei voluto perché c'era una macchina non so se ne è un'altra. Semplicemente avrei fatto lo scambio, per fa, tanto ci fanno a me, però non ti faccio di nuovo, non li volessi. Perché quando entri in questi, non esci più, se non so per l'altro, sai, ci sono tutti lì che vanno a farlo e sono pulisti per la stessa manetta. Non si mai accettare corso video o corso di indubbia o di indubbia provenienza. Assolutissimamente. Di tutti a provenienza non so perché la particolarità c'è nel video che vedi subito no? Questi sapere quasi pensare così lui fa funzionare quello lanterno fra gli assistenti fra me lui lo so e poi ho saputo che questo ragazzo qua gli ha fregato un sacco di soldi ai genitori, ma un sacco, gli apriva la cassaforte, non so quanti soldi gli ha fregato, ma un bel però, siamo intorno ai 10 milioni. Sì, non parla per te. Una brava persona, certo che sono io, ma non ci sono. C'è un perfetto appunto, hai ragione, non riesce a capire. Penso che sia eclatante quando una persona puzza di marcio. No, vabbè, non era un amico, un conoscente, un vicino di casa, diciamo, dai. E poi ho saputo che era infognato, mezzo alla droga. Se c'era la mia moto, lui se la... Dove era alle 4, alle 4 e mezzo non ce l'aveva già un altro, già me smerciata. Tutto da aspettare, da non essere così così perdente, da uno scattatore. E poi di tutto, no? Perché deve essere preparato pronto a tutto. Non è che se ti dice auguri come sta, non è che pure se lo fa. Ma non so, dunque, guarda, fondamentalmente dovresti lasciare la cosa che sta sua, perché non è saputo scindere la persona buona da quella cattiva. Noi dobbiamo essere, come è scritto nella Bibbia, no? A grandi che fanno colombe e scatole come serpenti. Se tu invece sei stato come una colomba e candido come un serpente, se tu non lo credo, non ho capito bene, non leva, è una cosa che tu non ha senso, il tutto devi decidere con chi andare e soprattutto non valutare lo stesso. Guardate le grandi persone che valutano lo stesso. Non trovo lo stesso perché si fanno scuse, quindi fanno degli errori, non sono sbagliabili, soprattutto questo solo per capire la tua mancanza di la tua mancanza di fare su questo suono, la tua mancanza di la tua superficialità, la tua superficialità. Tu modi di vedere da lontano, solo così, perché ci sono persone che hanno una certa testa e tu si incardinano lo stesso. Lo so, io qua purtroppo è andata così, potevo andare in piccio, e vabbè, pazienza, ci ho perso io, è tanto anche. Tanto che si sono fatte, che mi si sono state di gli occhietti. Volta sarà diversamente faccio le cose con più calma. Un gioco che ho fatto che era un po' così di fretta, ecco, senza guardare bene, e mi sono fregato, cioè mi hanno fregato. E vabbè, ti posso dire che l'ho trovata a me, che me ne sono, non ci può dire fregato, che non sono stato lì ad andare a bisticciare, a zuffarmi, ho lasciato perdere la verità. Ma se con la ti trova, ui, già la prende buona. Sì, sì, ma è inutile che pensi adesso a colpi di cardasso. Già quello avrebbero potuto tagliarmi la testa, o avrebbero potuto tagliarmi. Ma no, ma sì, è più facile scansare. Di scansare, non so. Non ho bisogno di fare scansare, non dare mai scarpe a chi non è amato, non te ne fai niente, nulla. Tu devi seguire quello che è giusto, la vita, cercare di avere gli amici più simili, e quelli che non ci fanno, che non ci vogliono, ci vediamo, sono peggio per loro, su tutti, per dedicare per il coscienza. Perché esistono le persone che mi corri dietro e non si fermano, e ci sono, perché non vogliono farsi valore, perché hanno preso la decisione perché è così giusto per loro, ci sono tanti fattori da determinano una scelta. Però naturalmente ti vedo un vitellone a te, no? Per esempio il vitellone no, non so perché, ma se fa offesa, non ti devi offendere, il vitellone sai cosa sono? Sono figuristi, no? Tutti riguardi, ma sono convenzioni, cioè sono semplici, con cui io ti riguardo, no? Queste orecchie quasi sono, non so perché sono rigide, perché hanno cosa, perché sono figli, perché sono figli, c'è il materiale, no? Un vicino solo per quello. Per cui loro hanno i gradi qui, non sanno che la cosa fa. Non si sono presi, ma non vedo. Così è stato tutto per noi. Si è stato fatto il vitellone. Lo so. Non sono stato molto attento, dai, diciamo. Vabbè, pazienza. È andata così. Poteva andare peggio. Poteva anche rovinare. Per dire. Perché prendevo la massa a bisbo e l'avevo spaccata in testa, per dire, no? E magari dalla parte della ragione si è impastata qua la parte del torso. E vabbè. No, ho lasciato perdere. Ho cercato di bisticciare, maledetto però era di qui lì, cazzo, che pugliava, nel senso che mi affrontava, mi ha affrontato, è come se mi ha affrontato. Però io sono calmato, se no tutto qua faccio danno, molto danno. Già sono un po' incasinato, facendo cosa magari a lui, proprio mi sei tirato la tappa ai piedi. Infatti ho evitato, Giova, sono guai. Sì, quello sì. Per fare danno, bisogna avere più la forza, non sarebbe la vera. Tu devi essere sofferente, nei movimenti, devi conoscere come trattare uno. Non parlare così, tu magari quello non conservi la forza. Sono sai come molto quando si rovina questo sulle mamme, carissima Luca, la madre penso che quindi come si fa fino alle mani, né con matti che ne con santi, non mi raga, né con matti né con santo, sì, no, non si, non si mettono troppo in quello lì, perché le cose tutte, anche se non sono in quella maniera, se non ha fatto il suo difficile per appunto in quel momento, visto che non sarà più un po' più tempo sovrapposito. Tutta più veramente ha detto di sé una fine di distensione, che ti avrebbe tirato le scatole nel momento che lo facevo praticamente, che tutti ti alle in aspetta anche una faccia e che ricade in guerra. Non per la crisi, perché è stato io qua. Allora sì, credo che ci sia un altro, però non è semplice, no? La cacarenti, la cacarenti, a chi però cacare, nel definito di mezzo al trovo, a chi però cacare, un essere proprio vicino a una vita, cantare sempre, sempre, quando cavi il rialzo, non c'è niente da fare, forse il mosso della persona salta, non è potente per fare questa cosa, è sacrificio potente, anche, con una buona visibilità. Ehi, qua non è come dici tu, non è come dici tu. Guarda, non stai dicendo, non ho fatto niente per non incasinarmi di più. La vita. Aspetta, sono andato a baseball, uno poteva essere un tubo, per dire, no? Cioè, tutti quei pianeti vogliono allontanarti il più possibile. Se li picchi magari con qualcosa, con, non so, un tubo, come ti ho detto, una mazza da baseball o una cosa del genere, sei più tranquillo, ecco. E vabbè, andiamo qua, non c'è problema. Purtroppo ho sbagliato, sbagliando si impara, diceva quello, la prossima volta sarò più attento, non ci sarà una prossima volta, perché non ci sarà più più. E poi si vedrà, ecco. E infatti io l'ho presa, sì, ma sentivo tanta puzza, ma comunque sono fidato, ecco. Ma il brutto è, oddio, il brutto, il bello è che lui la moto mia è durata in mano mezz'ora, proprio mezz'ora di orologio, e poi non ce l'aveva più, infatti c'aveva un'altra persona, e ha detto, ma questa moto, questa qua era la mia, e la sera mia mi ha detto io, come la tua, ce l'ha fatta questo qua, e ho detto, e me l'ha venduta a me, cazzo di questo, e poi da lì, ho sgamato tutto, ecco, ho sgamato tutto, cosa potevi fare? Guarda, ma i genitori non ne potevano più di questo ragazzo, non ne potevano più perché ha sempre incasinato, infatti la madre mi si è messa anche a piangere, guarda così, così, colà. E io qua, ero veramente, guarda, disperati, disperati, mi hanno combinato tutti i colori. Che non gli hanno fregato un bel soldi, un bel soldi gli hanno fregato, un bel, questo ragazzo era sempre carico di soldi, e poi si è saputo che gli fregava i genitori. Sarò fare una linea attuale tutto il tempo per riflettere la vita e per vedere la conclusione. Quindi sì, è stato tanto di discorsi di sapere che ho fatto bellissimi consigli, cioè è contento di fidarsi. E tutto il cibo è quello che è stato fatto nella e che conclude. Credo che una cosa la vera è che intrattiene un po' le tue decisioni, una sua strada, un po' di diversa, è una cosa che non c'è più consigli, non c'è più niente. Proprio perché sei convinto di quello che fai, perché questo è chiaro, tu comprano. Però secondo me io riferisco sempre a bomba con te, no? Secondo me devi migliorare la tua posizione immediatamente, subito, subito. Hai ancora 10 anni di tempo. Sono lunghi, 10 anni. Proprio per non andare a incorrere in un tipo di copertore, in un tipo di traffico, di leggenda urbana, perché mi si leggenda in metropolitana. Bruciare il tempo è lungo. Poi, da quei 10 anni, se tu avessi migliorato le armi, la reposizione potrei dire, guarda quel coglione, il consiglio me la... Se invece non avrei migliorato la tua posizione, allora direi che sei un morto. Lo so, ma è stata mia domanda adesso. Mi ha fatto abbassare le voci, non quella mi stacca il contattore. Vabbè. Pascescia, io ci vuoi fare. Troppo così. Che è l'unica, è andarsene fuori via. Io ho chiesto a un amico, una famiglia che ce n'è paese da fuori, se c'era qualche posto per me. Il posto c'è. Il problema è che devo cercare la casa. Per lì sta il problema. Se no questa non ce l'hai fatto lì. E cioè guadagnato i soldi giusti per vivere, ecco, non per comprarmi la Ferrari o comprarmi chissà cosa, solo per vivere e basta. A questo punto si pensa il profeta del nonno, che è messo in 9 e messo in franca, purtroppo è vero, caro Luca. Lo puoi dimostrare anche qua, che oggi adesso, il 99% delle cose che ci facciamo, ce le vogliamo noi. L'ho insegnato a moltissime persone che conosco, ed è vero. Non è sapposto più uno, ne ho messo sulla strada nel modo di informatica. L'ho insegnato tante delle cose, anche per questo. Oggi sono dei bravissimi programmatori perché mi hanno seguito e io non ho questo lavoro, tu sei presente, tu ti fatichi in questo lavoro, io non ce l'ho. Va bene, quindi questo è quello che devo fare con te. Devo prepararti e con la loro mente sono riusciti a fare il tutto. Poi è stata una loro scelta uscire di qua, una loro scelta per quello che non vedo il mondo. Anche questi sono come i bittisti, no? Loro conoscono la musica della strada. E così devi fare tu. Però prima devi preparare ciò. Devi partire per lui. Oppure andare e fare quello che gli fai. Anche tu. Io lo so. Io lo so, Giova. Non so, mi stanno dei consigli, no? Se c'è uno... che non mi stanno così, ci mancherebbe. E non sono tutti che ti danno, che ti danno questi consigli. E va bene, comunque. Babbo Giova, là, chiamami Azzarro. Già continuiamo domani questo discorso qua, se non è stato la mia madre, che sto capeggiare, perché mi sento quando parlo. Da tutti i muso, Giova, ok. Ciao, ma non è che buon tutto. attraverso il telefono. Da qui a 10 anni, una grande grazie a questa attenzione, migliaia, che coglione che sono stato. Ce l'avrai migliorata. Ma dai, ma guarda quel coglione che sono stato, che era pessimo. Da qui non si sta. Io te l'ho detto, io ti vedo così. Ti vedo così. Ogni tanto te lo ricordo, ragazzi, ma non so perché ho questo, però te lo ricordo. In modo che tu possa avere l'opportunità di proteggere un domani, ecco. Non è che mio padre, mia madre, mi fa così, mia sorella, mia moglie, mia figlia, mia amica, non è che ho gli ordini di quella scintilla di sé, ma è per lui. Ok, almeno di questo. Esattamente, se si sente insieme, se mi chiede che la passate, magari, quindi, e già ne faremo domani, dai, giù, ciao.